con te vale tutta una vita. Non guardarmi così, tu soffrire mi fai. Ti prego rimani con me. Dove vai? Non sai. Vivrò solamente per te, per sognare con te, per soffrire con te. Frasi d'amor, non lasciarmi se puoi, ho bisogno di te. Tu sei libera, vai, ma ricordati che Hey!